duro reportage. Ai confini dell'Europa, Orban alza il muro ungherese. Di Valentina Furlanetto. 175 metri di filo spinato e rete metallica nel tentativo di difendere l'Europa dalla folla che cerca di entrare scappando da dittature e guerre, nel tentativo di difendere i valori cristiani ed europei, dice il premier ungherese Orban. Ma la frontiera tra l'Ungheria e la Serbia, che la rete di filo spinato pretenderebbe di difendere, in realtà in questi giorni si è spostata a Budapest, la capitale dell'Ungheria, teatro di uno scenario quasi di guerra. Migliaia di persone stipate all'inverosimile davanti alla stazione che è stata chiusa per 2 giorni, Keleti Paliudvar, la stazione internazionale. Ma i migranti siriani e afghani, per lo più, che cercavano di raggiungere da Budapest il resto dell'Europa, in particolare la Germania, non potevano passare. Germania, Germania, hanno gridato per 2 giorni e 2 notti i migranti. Finalmente la stazione è stata riaperta. No Germany? Sorry, you know where is it going this train? Oh, we ask everybody, they say we don't know. Non va in Germania? Dove va questo treno? La polizia ci ha detto che non lo sa. Nessuno lo sa e dentro manca l'aria. No, non salgo sul treno, ho paura, non mi fido. Nessuno ci dà informazioni, ho paura che ci portino nei campi profughi. I come from German. Yeah, I'm Syrian. Raqqa. Arrivo da Monaco, sono siriana di Raqqa. Sono venuta per prendere mia sorella e mia madre, che sono qui a Budapest da 10 giorni. Ma non ci sono treni, non ci fanno partire. E io che vivo a Monaco non posso tornare. No trains, no bus, no everything. La folla si è accalcata sui binari, hanno tentato di salire tutti sui treni stipati all'inverosimile. 2 sono partiti in direzione Győr, al confine fra Ungheria ed Austria, ma quando sono state a Bixre, campo profughi ungherese, sono stati fatti scendere. I profughi si sono rifiutati. Scene di tensione, panico. Una coppia con un neonato si è distesa sui binari in segno di protesta pacifica. L'uomo è stato ammanettato. Altri aspettavano intanto alla stazione di Budapest, dove lo sconforto era grande, ma era anche ferma la decisione di non andare nei campi profughi. I migranti si sono organizzati in stazione, hanno messo in atto un sit-in pacifico. Bambini per terra hanno simulato di essere morti con le labbra cucite. L'Ungheria e la Guantanamo dei bambini hanno scritto sui cartelli chiedendo di poter partire per la Germania, diventata ormai l'ultimo sogno europeo. Which country do you come from? From Syria. Maybe everybody here from Syria, from Afghanistan. And here the people dangerous, very dangerous. The police, very dangerous. Yes. How old are you? 27. What do you do in Aleppo? Are you a student or? Yes, yes, I'm a student. I'm very tired because 5 days I'm here. We don't sleeping, we don't do anything. How long was your trip from Aleppo since here? How many days? Maybe 1 month and 10 days. Till walking a little in the car, in the bus, in the sea. In the sea, very dangerous. I pay $1,002 to come from Turkey to Greek. Yes, by boat. Maybe somebody come and say, give me money to arrive you to Hungary. If you don't pay, maybe he's steal my money or same mafia maybe. Yeah, I want to go to Germany. Ma chi ha avuto l'idea di erigere il muro? Laszlo Toraszki, sindaco di Assotalom, città di confine, è stato il primo a lanciare l'idea più di un anno fa. Hungary and who love Europe. Tévedés falnak nevezni, mert ez nem egy fal. Sono un patriota, dice, amo l'Ungheria e l'Europa, ma ne difendo i valori. L'Unione Europea si è dimostrata incapace di farlo e di difendere i confini. Questa è l'unica soluzione possibile per fermare il traffico e costringerli a trovare altre rotte. Toraskai è in linea con il primo ministro ungherese Orban, il quale ha rilasciato un'intervista nella quale si erge a baluardo dei valori cristiani ed europei. Az idősek klubjában is egy órát másfele testét kínülünk, sötéted előtt hazamegyünk, nem bántanak. Trattano come animali queste persone che fuggono dalla guerra, dice Anna, una signora ungherese di 82 anni. Quando li lasciamo dormire per terra, dice, come qui, senza potersi lavare, senza diritti, quali valori cristiani ed europei stiamo diffondendo? Anche noi ungheresi siamo stati profughi, continua la signora, ma i giovani non hanno memoria. La città sembra però indifferente a quello che sta avvenendo in stazione, con l'eccezione di alcuni volontari e privati cittadini che arrivano a portare cibo o vestiario. Vasárnap óta van már itt olyan tömeg, hogy már nagyon nehéz kezelni. Da domenica c'è un numero di persone che non si può più gestire la situazione. Quali sono le esigenze in questo momento più importanti, quelle sanitarie, il cibo? Ezt folyamatosan megoldják magyar önkéntesek. I volontari ungheresi portano sempre medicine, cibo, tutto di cui c'è bisogno e risolvono comunque al giorno la situazione, sempre aiutano i volontari. E la situazione di salute dei bambini, delle donne qui? Mindent megoldunk. A múltkor itt a utcán volt a szülés, itt szült. Ne piak qualche giorno fa, una donna ha partorito addirittura qui. Igen, itt a földön. Qua, per terra. De megindult hamarabb a szülés, azonnal a miénk segítettek, jött a mentő, bevitték kórházba, ellátták. La signora pensava di poter resistere fino alla Germania, però alla fine il parto comunque è cominciato, tutti i volontari e tutti l'aiutavano. Sa come si chiama il bambino? Fatima. Avete aiuto dal governo, dal personale sanitario? Annyi, hogy kaptuk questa helységet. No, ricevono solo questo spazio, qua questa camera chiusa, una stanza chiusa, ma nessuno, nient'altro. E poi c'è il partito neonazista ungherese Jobbik, che alle ultime elezioni ha conquistato il 23% in Ungheria e considera la recinzione di 175 km al confine troppo blanda. Ja, hát ez pontosan lényegében a Dublin 3-nak a gyakorlati felmondása, amit Olaszország csinál, és egyébként az ő saját maga szemszögéből, Olaszország és az olasz emberek szemszögéből. Adam Mirkoczi è il portavoce del partito. Orban dice, fa credere agli ungheresi con il muro che ha eretto ai confini fra Serbia e Ungheria che i migranti non entrano. Invece non è così, passano sotto, passano da tutte le parti. Ci vorrebbe un vero e proprio muro, dice. In realtà basta sollevare la rete, è solo una messa in scena. In effetti la recinzione alta 3,5 metri non è sufficiente ad arginare la marea umana che preme alle porte d'Europa. Scavalcano, passano i bambini sopra il filo spinato, tagliano le recinzioni, passano sottoterra, qualsiasi cosa per fuggire dalla guerra. Go to Europe. You want to go to Europe? Germany, France, British, Sweden, anywhere. Yes, go, let's go. You come from Syria? Syria. Kill. Syria. Yes. What was your travel? Yes, Greece, Macedonia, Serbia, Hungary. Hungary. Close. Why? Maybe everybody here or... maybe everybody here from Syria, from Afghanistan. We have in our country war, and here the people dangerous, very dangerous. The police very dangerous. I work as a cardiology. My wife as a dentist. Where do you come from in Syria? Aleppo, Damascus? I come from Idlib. My wife from Damascus. Damascus, Idlib city. All time walking. We are very tired. We have three children, and they very, very tired from walking, from everything, dangerous. Everything. We see all dangerous as this road. Tea. I have money, but I will stay in this place with my friend. Hungarian police, not good. Camera is founding, he is good. But if camera not founding, not good. Like Syrian police. The same, similar. 3 days ago, I go to take food for my children. And then the police stop and catch me and beat me. Police, Hungarian police. No beat, because the camera is founding. If camera, Sahafa breast not founding, very dangerous. Ma alla fine la frontiera, che era fra la Serbia e l'Ungheria e che si è trasferita a Budapest, è anche dentro di noi, fra quei valori cristiani ed europei che il premier ungherese Orban dice di voler difendere con la rete metallica e la concretezza di fatti che parlano di persone che fuggono da guerra, che arrivano in Europa e vengono manganellate o vivono nel degrado a Budapest. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Budapest. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.